ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. In a merlin kind, feel it all world. Ho finalmente qualcuno che canta, qualcuno che rompe il silenzio. Il chiacchierare ad alta voce nei telefonini degli altri passeggeri. E lei, sì, l'ho riconosciuta, Viola Campo. L'avevo incontrata non molto tempo fa e si vede che anche lei va zonzo nei treni cantando così, tanto per richiamare l'attenzione, ma l'attenzione mia, la calamitata. Bello, mi piace questo. Ma fermati adesso, fermati. Tu mi hai raccontato che mozza zitta più, ragazza, cosa ti arrivi? Già mi stanno cominciando a guardare male. Fermati un attimo. Okay. Ti chiedo di cantare perché, come già ti dissi l'altra volta, manco completamente la dimensione musicale io. Non avendo avuto a casa mia nemmeno un mangiadischi di merda, di plastica, quando ero piccolo. Tristezza. È triste. Ragazzi, e te cosa hai mancato quando eri piccola? Dimmi una cosa ti è mancata da piccola. Una cosa non ti hanno mai regalato, la casa delle bambole, il dolce forno, delle cose che volevi non ti hanno mai regalato. Volevo il microscopio. Non ti hanno mai regalato un microscopio? No. Perché non lo giocavano da femmina, come mai? Mm? Tu che ci facevi col microscopio? No, non c'era in realtà, non era legata al tu volevi un microscopio, ma lo chiedevi? Mi piacevano gli insettini, quindi in realtà era sì, è una cosa terribile. Ero curiosa nel vedere l'interno degli insetti. Cioè, sì, sezionare gli insetti, non lo facevi? Dimmi un insetto che tu. Le formiche è un po' difficile aprirle. No, è l'ombrico ho fatto. E l'ombrico è tutto uguale dentro. Ho capito, io non lo sapevo però. Se anche lo tagli a pezzi, fai tanti lombrichi. Però non la vedevo. Poi in realtà poi mi sentivo in colpa perché poi dopo non lo sapevo che aprendo un lombrico incide. Sì. No, se tu lo tagli nell'altro senso, tagli diventano due lombrichi, un anellide diventano due. Non lo sapevo io. Non muore, capito? Penso almeno. Da piccolo pensavo questo. Ma è giusto. Se in realtà morivano, però pensavo che ne venivano due, però usciva il sangue, quindi morivano. E le lucertole, sapete che si tiri la coda, si stacca? Sì, sì. Che si agita la coda da sola, fa paura, eh? Si muove con la mano, mi spaventava però tanto. Però ricresce la coda. Sì, ricresce, la coda ricresce, sì. Carine le lucertoline al sole, pure le pipe. Ma parlami di queste cose degli insetti, scusa. E che altri insetti tu collezionavi da piccolo? No, non ho parlato di collezione. Vabbè, li prendevi, dove li trovavi? No, era legato solo al fatto del microscopio. E beh, i lombrichi dove li prendevi? I lombrichi sotto casa c'era ancora il... La concimaia? No, non c'era la concimaia. C'era un giardino, E tu scavavi e trovavi il... No, non è che scavavano, uscivano subito dopo il temporale, mi piaceva. Ah, quelli rosa, grossi? Sì, loro. E quelli prendo... Oppure quando... Oddio, cosa mi hai ricordato? Che cosa fai quella faccia? No, dimmi. Sotto le pietre stanno, sotto i mattoni. Ma quelli sono quei vermicini bianchi, piccoli. No, sono sempre lunghi, infatti facevano tutto il perimetro. E poi mi ricordo che costruivo queste... Lombricaie? No. Torte di fango e facevo le guarnizioni con i lombrichi. Ma pensa te, da leccarsi i baffi. Era bellissimo. Cioè il lombrico stava fermo lì e faceva la guarnizione. Lo piantavo un po' nel terreno. Cioè in realtà l'ho soffocato il lombrico. Beh, interessante questo. Sì, interessante. Cioè, fossi stato io tuo padre e tua madre, ma questa bambina promette bene. No, perché altro facevi poi? Che altri insetti maneggiavi? Mi piacevano pure i serpenti e c'era questo... Nel giardino c'erano sempre serpenti? Sempre, sì, Un anno trovarono quello che a Roma chiamano frustone. Sì, vabbè, la biscia. La biscia verde. Sì, biscia. Vabbè, non è velenosa. Però. No, insomma, non ha paura, infatti. E li prendevi i serpenti? No, i serpenti. Io li ammazzavo, ero crudele. Andavo a caccia dei serpenti, anch'io. Oddio, allora sono una persona crudele, anche io. Li ammazzavi? Ma che no, ti ho detto di no, erano troppo veloci. Il serpente era da ammazzare. Beh, c'erano vari tipi per ammazzarli. C'era la fionda, c'era la freccia fatta con la stecca dell'ombrello. Ma quindi tu hai fatto trekking? Ma che trekking? Vivevo in campagna, stavo in mezzo ai contadini, trekking. Oggi si chiama trekking, allora dice... Le scarpe, lo sai, si chiamavano le scarpe dei contadini? Le ciaccamerda le chiamavano. Ciaccamerda. Hai mai visto tirare il collo a una gallina? Certo, la gallina stira il collo, la papera, la contadina che l'ammazzava, c'era un sistema fantastico, c'era un cassettone, quello con i cassetti nella stalla, io tenevo la cosa per affilare le falci, gli infiava la testa nel cassetto e chiudeva il cassetto. Sei la morte. Sì, o se no tagliava la testa con l'accetta, perché l'oca con la testa con l'accetta. Tutto visto ammazzare, anche il maiale. È normale, in campagna, una cosa normale. Sì. Una cosa... Solo che è normale per chi lo vive. Io non... A noi bambini non volevano farci vedere che ammazzavano il maiale, ci chiudevano in una stanzina. Noi guardavamo sempre, pensiamo, strilla un casino il maiale. A gennaio, nella nebbia, sentivi fendere la nebbia da questa sirena del maiale scannato. E guardavamo, ci impressionavamo. Ci chiamavano quando era già sulla scala squartato, andavamo lì col secchiello a prendere il sangue per fare il sanguinaccio. Sì. Che è dolce. Sì, ci mette una cioccolata, una cosa schifosa, ci penso adesso vomito. Anche... col cacao, una roba marrone, una gelatina marrone fatta col sangue, mangiate, fa bene, fa buon sangue. Una volta un signore mi ha detto, in realtà, penso sicuramente stesse scherzando, che l'ingrediente segreto della Nutella è proprio il sangue di maiale. Ma no, una stronzata. È vero? C'è l'olio di palma, le nocciole e altre cose. Ma non l'hanno tolto l'olio di palma? No. È tutto... Vabbè, mica fa, ma l'olio di palma adesso è una leggenda metropolitana, è un olio come un altro, infine. E allora perché hanno fatto tutto questo business? Perché l'olio di palma dice che tagli le povere sorelle palme, deforesti, Greta, tutte queste cose qua, capito? L'olio di palma è olio di palma, fine, non è che fa male, è più dell'oliaccio schifoso che pigliamo noi che non sai con che fa. Sei sicuro? Sì, sì, penso, poi non lo so io. Penso un conto. Io non mangio, non mi piace la Nutella, quindi non lo ma so. Anche io. Tu dagli animali della tua fanciullezza. Basta. Fine, serpenti, no, lubrichi. No, un bestiaio. Serpenti e lubrichi. Sì, erano questi quelli che... Ma c'hai cani e gatti adesso nella vita adulta? No. Non c'hai né cani né gatti? No, sono allergica. Allergica al pelo del gatto? Lo so anche. Io c'ho una mamma gattara. No, in realtà non sono allergica al pelo del gatto, sono allergica alla saliva. Al biascichio del cane? Sì. Vabbè. E del gatto anche. Il gatto è mio, c'ha saliva. Beh, sì. Posso sempre a leccarsi. Sì, ma c'ha quella lingua rasposa. Che pare sia... la delizia delle gattare, diciamo la verità. Veramente? Certo, quando ti lecca il gatto senti questa raspina. Ci pensa che stai ascoltando, siamo passati dalla vivisezione degli animaletti alla lingua. Di questo stiamo parlando, dammi un altro argomento. Non lo so io. Sei sul treno, devo passare il tempo, è divertente parlare di queste cose, capito? No, io ti dico, io avevo una mamma gattara. Ha avuto punte di 20 gatti a casa mia. E quindi onestamente un po' il pelo del gatto lo sento. Una volta... campagna? No, sì, in campagna sì. Stavano fuori. Sì, ma normalmente oggi frequenti persone, sia maschi che femmine, hanno gatti dentro casa. Va molto di moda. E onestamente il gatto, dico, guarda, lo dico sapendo che diventerò impopolare. Ti odieranno tutti. Eh sì, ho capito. Ma... innanzitutto vai in bagno c'è sta letterina piena di cacate di gatto, che per quanto sia ci possono mettere anche i profumini sopra, ma a me fa un po' senso se sta brecciolina piena di cacca. Ce n'è una vegetale all'olio di neem, che rimane l'odore. Io ho avuto cani in casa nella mia fase cittadina, l'odore del cane in casa ti rimane, non te ne rendi conto finché ce l'hai, quando lo togli passa un po' di tempo, poi lo senti quell'odore di pelo bagnato, di biascichino, di puzzetta di cane, cioè è inutile. E il gatto lo stesso, la lettiera si sente, tu ti puoi profumare, mettere le creme, mettere le atmosfere, comprare il tacco 12, darmi caviale e champagne, ma la cacca del tuo gatto a casa tua rimane attaccata ovunque. E non ci sono santi. Sì, io proprio non ho quella passione. Un però pochino. Con le lettiere chiuse, sì. Ma sì, ma figurati. Sento... Ma va, il gatto si sente indelebile, figurati, non ti preoccupare. Is there a right thing for us to do? She got to you. You're a thing. She knows. Just tread lightly on the ground. make a sound. She knows, she hears your heartbeat, feels your breath, smells the fear, always near. She knows, she knows, she knows, she knows, she knows, she knows, she knows, she knows, she knows, she knows, she knows, she knows. Is there a right thing for us to do? She got to you, you're the thing. Just informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Ma cos'è quest'estate? Semplice, l'appuntamento estivo con l'attualità di Radio 24. Le storie di cronaca più importanti, i numeri di un'Italia in continuo cambiamento e un po' di leggerezza sotto l'ombrellone. Ma cos'è quest'estate? Dal lunedì al venerdì alle 8 su Radio 24. E il sabato non perdete il meglio di Ma cos'è quest'estate? Un riassunto degli avvenimenti più importanti della settimana. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Parliamo un po' dei social, scusa, non c'entra niente, ma ti dico prima che stavi su Facebook. Qual è il tuo interesse? Ti poni in questo luogo? Hai ammiratori, ammiratrici, gente che ti cerca? Metti foto fighe di te, foto sconce, foto interessanti? Vario tantissimo per in qualche modo. Mi annoio fondamentalmente. Secondo me è pesante essere donna, però. Perché tu ti sei bellissima. Io vedo le amiche, una mette una foto chiavicosa normale, normalissima, fatta durante un viaggio, un selfie, lì venuti male così, subito bellissima, stupenda, sia gli uomini per arruffianarsi e le donne per invidia, quanto sei bella amore, sei bellissima, tutte, ma è uno che dice sta foto fa pena, levela, perché spesso le foto fatte da noi fanno pena, no, tutte bellissime, anche a te lo dicono bellissima, no. Monte dico bellissima. Bellissima, bravissima. Io poi su Facebook posto le mie poesie. Quindi la gente gira pagina subito per no, dire. In realtà invece no, sai, se invece è abbinata a una foto. Grazie, metti una foto con le zinne di fuori, poi ci metti una poesia, tutti a leggere la poesia, immagino, figurati. Allora ho fatto questo esperimento. L'hai fatto? Sì, sì. E tutti dire che bella poesia. Hanno detto sì, che bella poesia. Poesia, però hanno detto anche. Vabbè, quello è marketing. Sì. Cioè, se ha avuto le tette Garzia Lorca, magari lo ricorderemo ancora di più. È uno strumento meraviglioso. Cioè, sì, sì. Sono due facce della stessa medaglia. Sì, sì. Ma diremo la cosa più banale del mondo, dipende da come lo usi. Sì. Quindi può essere un validissimo strumento. Vale anche per ogni strumento vale. Sì, così. Appunto. Però può essere anche un. Può essere un bello strumento, ma se lo usi male è uno strumento inutile. Appunto. Può essere un brutto strumento, ma c'ha il suo perché, dipende. Sì. Io lo uso sperimentando. Lo strumento. Lo strumento. Parlami della tua sperimentazione strumentale. Beh, negli anni mi sono accorta appunto che ci sono determinati argomenti che fanno sì che tu possa avere più like. Ho notato che quando cominci comunque a mescolare le carte, quindi non hai un'identità fissa, l'algoritmo impazzisce. Non riescono ad inquadrarti, e non essere inquadrata. Che vuol dire? Tu vari, diciamo. Vario. La sì, maniera che posti, a volte musica, a volte. Sì, a volte musica, a volte anche la situazione politica odierna. Me, magari, appunto, con un cappello e con il maglione a dolce vita. La prassi è sempre struccata. Lo sai cosa che detesto io? Un po', visto che parliamo di donne, le donne che ammiccano. Gigioneggiano e poi se la prendono con gli uomini tutti uguali, tutti malati di figa, tutte cose. Io penso che avendo parlato con alcune donne, che loro lo facciano di proposito. Sì. E poi sbeffeggiano la povera, misera, triste. Vabbè, ma siamo una contraddizione. Sì, purtroppo, per fortuna. Sì, non... Cioè, butti il miele alle api, mm-hmm. Poi quando arrivano i calabroni, dice che schifo i calabroni tutti neri. Che devo fare, poracci? Penso che sia legato al loro rapporto con il cibo. Dici? Credo di sì. Sono persone che non mangiano, mangiano poco. O sono persone che magari si sentono in colpa quando mangiano un pochino di più, o quando si lasciano andare ai piaceri del... Questa cosa è singolare. Come hai fatto questa valutazione? È strano, non ci ho mai pensato. E parlando con loro, ascoltandole. Quindi sempre, le persone che si espongono in... Le persone che... architetture seduttive... però finalizzate soltanto alla denigrazione di chi accetta la seduzione perché mangiano poco e male. Sì. Cioè si impongono diete. Sì. E quindi diciamo la metafora della loro astinenza da cibo è rappresentare una maledetta astinenza da contatto. Sì, credo che siano strettamente legate, perché poi Forma di maledetta anoressia praticamente relazionale. Anche bulimia, perché comunque siamo nell'era del consumismo relazionale, no? Ah, quindi c'ho tanti ammiratori. A giocare, avere il codazzo, però facendo sempre la profumiera, perché così salvi diciamo, almeno apparentemente. Poi penso che il concetto di profumiera sia cambiato. Sì, spiegami un po', questo è interessante. Sì. Visto che sono così attento agli odori, perché adesso è anche farti capire che sono una nuova fragranza, una nuova essenza. Questa non l'ho capita. Beh, sforzati, certo che lo puoi capire benissimo. Non è solo farti cioè hai cambiato il deodorante intimo, questo? Non lo so, no, assolutamente no. No, per dire nuova fragranza, che vuol dire? Che ti faccio credere e voglio. Che sono qualcosa di diverso dal che mondo. Che sono qualcosa di diverso. Perché che sono una nuova essenza. Dalla notte dei tempi, ognuno vuol far credere che è qualcosa di diverso. E appunto, e quindi di che cosa? Niente, si riverbera la tradizione. È così. È un supporto nuovo di antiche nostre compulsioni. Comunque, il nastro del tempo scorre. Vabbè, senti, scorre il nastro del tempo, scorrono anche le rotaie. Grazie a Dio sono arrivato, ecco. Perché mi scoppia il cervello. Pure a me, guarda, mi è venuto un mal di testa. Vabbè, tu canti, io manco canto. Ciao, buon viaggio. Grazie. Alla prossima. Ciao, ciao. Hello, sus, Mr. Miss. You are the music of the time. How are you, Mr. Say? Oh, tell me and say, is this enough for you, trying me? Or is it so easy night? Is this now for you? I don't know. I really so I'm exhausted, but I you see I'm so sorry, but I don't understand nothing tonight, but I stay here. Oh. Oh, it's to prove all, yeah, again, again. His pain so so fatal. Yeah, so sure oh, I really agree. But informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Era tanto che non lo incontravo più in treno. Era tanto che non vedevo la sua valigetta da perfetto acchiappafantasmi. È colui che gira l'Italia alla ricerca di zone infestate e ha con sé tutto il suo macchinario. Iperbolici marchingegni con luci, sirene, contatori, insomma quello che serve per capire la fantasmatica presenza nei luoghi infestati. Stiamo continuando a percorrere l'Italia nei posti più misteriosi e inquietanti, a dire il vero. Ma la mappa chi ve la dà? La mappa dei posti infestati da fantasmi, visto che questa è la vostra ricerca. Come fate a sapere se un posto può essere quello in cui ci possono essere le oscure presenze? Per fortuna abbiamo, diciamo, abbastanza follower che giornalmente ci informano, a seconda della città in cui vivono, i posti più misteriosi che secondo loro sono soggetti. Quindi avete un gruppo nei social in cui noi oggi andiamo a Genova, diteci che c'è a Genova, così funziona? Beh, in realtà arrivano prima le segnalazioni e poi annunciamo il nostro percorso. E quante te ne arrivano in media? Facciamo una media in una settimana per far capire quante segnalazioni ci sono. La media è di 6-7 mail giornaliere. Giornaliere? Esatto. Quindi 7 presunti fantasmi al giorno ti arrivano? Esatto, ovviamente tanti. Il 90% delle segnalazioni sono frutto di invenzioni o credulità popolari. Ci credono, li vedono, vuol dire che comunque l'idea che possono esserci fantasmi galleggia abbastanza solida nella mente comune, no? Sì, diciamo che c'è un pubblico abbastanza folto per quanto riguarda il paranormale in Italia, che rispetto ad Inghilterra e America è comunque una minima parte, ecco. Beh, se no non ci avremmo tutti questi santi, martiri, miracoli, abbiamo di tutto, figurati, è giusto che credano anche i fantasmi, se no diciamo, più o meno sono due facce della stessa maniera, no? La stessa modo, diciamo, di pensare. Che in realtà la presenza del Vaticano anzi ci mette in difficoltà per quanto riguarda il territorio italiano, per la ricerca vera. Ma perché pongono, c'hanno dei disturbatori di fantasmi, cioè come mai, come funziona? Beh, no, in realtà soprattutto a sud l'idea del fantasma o comunque dell'energia è superstizione considerata. Esatto, alcune volte viene associata anche a sette sataniche, eccetera, eccetera. No, scusa, se la Madonna piange è un prodigio e il fantasma è Satana, fammi capire perché. Esatto, purtroppo non lo capiamo neanche noi. Io personalmente, vivendo in Sicilia per 20 anni, ho toccato con mano questo aspetto. Non si poteva parlare di paranormale, di fantasmi e quant'altro. Però di miracoli sì. Però di miracoli sì, la Chiesa sì. Per i fenomeni non misurabili con parametri scientifici, comunque sono tutti fenomeni che partono nella sfera dell'irrazionale. Ora, una fede profonda può dire: io credo nel prodigio perché credo nell'influenza divina, così. Ma allora anche una sedia che si muove o un fenomeno che non ti spieghi, non è che voglio, lo faccio per provocare risposte, per capire, sono sullo stesso piano dell'irrazionalità. Una volta che ammetti che esista una realtà che noi non possiamo misurare, che esista comunque, che si muove, che crea fenomeni, devi credere a tutto, però. Infatti è quello che noi sosteniamo, solo che il fenomeno paranormale viene attribuito a un pericolo, quindi un qualcosa di brutto, di negativo, e quindi associato anche a rituali di magia nera, rituali satanisti e quant'altro, e quindi se ne parla ben poco in Sicilia, in Calabria. Quello ci sta, però ci sta il rituale, la messa nera è già un atto, è un atto codificato con una sua liturgia, ma tu non mi sembra che, non è che evochi fantasmi, te vai in giro con i tuoi strumenti e cerchi di misurare la loro presenza in qualche maniera, no? Assolutamente sì, l'unica cosa che coincide fra le due parti è che alcuni dei posti in cui noi andiamo a indagare effettivamente sono frequentati anche da questi personaggi che effettuano questi rituali e queste abitudini macabre che hanno. Allora ti scuso, io perché guardo molti film dell'orrore e di fantascienza, e oggi la fantascienza è tutta basata sui mondi paralleli, ma non è che questi magari aprono quello che nei film chiamano il portale, un portale verso altre dimensioni, e poi entra e esce quello che vuole? Ecco, questa è una cosa sicuramente possibile, perché a livello energetico quando si fa un rituale o comunque si riunisce e si attua una sfera magica o una sfera ritualistica, effettivamente si possono aprire a livello energetico dei portali con o dimensioni parallele o comunque qualcos'altro di invisibile, e quindi è possibile che quando noi interveniamo troviamo anche energie di questo tipo, ecco. Cominciamo a capire, per ricordarlo a chi non ci avesse mai ascoltato le nostre precedenti chiacchierate, ogni tanto capita ti incontro in treno, ma si vede che tu percorri per lungo, per largo il paese alla ricerca dei fantasmi. Tu, a differenza di quelli che possono pensare che vanno con il tavolino che balla, con queste cose qua, tu vai con un'attrezzatura scientifica. Ecco, il tuo kit da cosa è composto? Allora, il nostro kit è composto da telecamere infrarossi e telecamere in full spectrum, che significa che abbracciano tutto il campo visivo dagli infrarossi agli ultravioletti. Poi abbiamo dei registratori digitali modificati per andare a registrare anche nella fascia degli infrasuoni, e quindi una fascia audio non udibile ad orecchio umano. Che non sentono nemmeno i bambini, nessuno proprio. Gli animali la sentono? Forse gli animali, non è scientificamente ancora provato, ma alcuni tipi di animali. Uno ad esempio è il delfino. Potreste portarvi dietro un delfino, sarebbe la stessa cosa, con una vaschetta, vascone, no? Sarebbe un po'. Però solo il delfino, nessun altro animale ha questa percezione. Attualmente, che ci risulta noi con prove scientifiche, no. Oltre comunque ai registratori ci sono anche i rilevatori di movimento, rilevatori di campi elettromagnetici, che sono molto importanti nella nostra attività. Tu a parte da tutta una segnalazione, sennò dovresti stare come... Una volta definita l'area in cui possibilmente ci potrebbe essere una presenza, tu la delimiti e cominci a mettere i tuoi strumenti a vedere che succede in quel posto, così funziona? Esatto, si sta sul luogo circa 6-7 ore con tutta la strumentazione piazzata, sia la manuale che la fissa, e si gira all'interno della struttura, se è una struttura, o all'interno del luogo, anche in alcuni casi abitazioni private. E questo è il nostro modus operandi fino a quando non ci rendiamo conto che la segnalazione poteva essere realmente veritiera oppure era soltanto frutto di immaginazione magari di chi ce l'ha segnalato. Può succedere anche questo. Ecco, c'è mai stato un momento in cui, come nei film, vedi tutte le scale che vanno sul rosso, si accendono tutte le luci, insomma gli strumenti tutti assieme segnalano che c'è qualcosa che non si vede ma c'è? Ti è successo di avere proprio questa emozione? Sì, è successo parecchie volte in realtà in luoghi che per antonomasia ormai si definiscono infestati, e anche in alcune abitazioni private abbiamo avuto dei riscontri molto forti dal punto di vista della strumentazione, ecco. Cioè tutto a fondo scala va a quel punto? Esatto, quando si concentra tutta l'energia tutta la strumentazione incomincia, fra virgolette, ad impazzire, e lì sappiamo che siamo fra virgolette di fronte a dei fenomeni paranormali di sicuro, ecco. Ecco, con gli strumenti di registrazione, questi sono gli indicatori, diciamo, di frequenza. Gli strumenti di registrazione, poi è possibile decodificarle, queste frequenze che sentono solo i delfini, in qualche maniera? Cioè c'è qualche prova concreta, cioè audio, video, di qualcosa che non ci si spiega? Sì, allora noi tutto quello che poi rileviamo in un luogo lo analizziamo per circa 2-3 mesi a casa, quindi è un lavoro di analisi ben approfondito. Abbiamo un convertitore che dalla fascia infrasuono rende gli audio registrati udibili a orecchio umano. Quello mi chiedevo io, una volta però presa la frequenza la puoi decodificare, la puoi trasformare in delle frequenze che possiamo ascoltare anche noi. Sì, assolutamente sì, infatti tutte le prove che raccogliamo poi le pubblichiamo sul canale YouTube di Italian Paranormal Research, dove attualmente ci sono 70 video con dimostrazioni e prove di quello che abbiamo trovato nei vari luoghi d'Italia. Raccontami l'episodio più eclatante che tu ricordi di più, poi magari lo facciamo anche sentire, me lo fai sentire con lo smartphone. Qual è l'episodio? Allora, l'episodio più eclatante è successo l'anno scorso in un'abitazione privata dove ci sembrava di interagire con un'impronta energetica di bambino o bambina. E com'è la differenza? Qual è la differenza? La differenza è dalla manifestazione che in quel momento stava interagendo con noi attraverso uno scansionatore radio, quindi di una voce flebile e sottile come quella di un bambino o di una bambina. Con i casi di poltergeist non c'entra niente. Anche successivamente a questo file audio, a questo risultato audio, un pentolino di acciaio deposto su un mobile è schizzato via 3 metri da... Ah, l'hai visto proprio schizzare? E sì. Dove stavate? Diciamo, la voce dove è stata registrata? In che luogo? La voce è stata registrata nel salone principale dell'abitazione e poi a un certo punto è volato questo pentolino facendoci saltare il cuore in gola. Ecco. Tu hai detto voce di un bambino, di una bambina, chi era la voce? Era una bambina che poi successivamente alle indagini e alle analisi abbiamo scoperto, grazie al racconto di un'anziana, che molto probabilmente ha perso la vita investita da un trattore dal nonno mentre guardava il nonno coltivare i campi. Mina than the sea, she's the only one I am afraid of, wiser than the trees, she's the only one I ever dream of. Signori passeggeri, che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Qui c'è tutta la fattispecie della morte tragica, inaspettata, una circostanza drammatica, pensa a una nipotina che si vede schiacciare dal trattore del nonno. Sentiamo questa voce, poi mi la decodifichi. C'è una bambina? Sì! Oh, visto, no? Quello che era il rumore del trattore. No, quello purtroppo è il rumore dello scansionatore radio che abbiamo, che in gergo si chiama Spirit Box. Purtroppo per catturare le frequenze audio... Ah, devi prenderti anche il rumore. Qui esattamente cos'è? Quel sì è la voce della bambina? Esatto. Risentiamola un attimo, così risentiamo, facciamo risentire che ci ha ascoltato. C'è una bambina? Sì. Oh, visto, no? Quel sì da dove viene fuori? Dove è stato emesso? Allora, sì. Diciamo che questo strumento fa una scansione radio continua a una velocità di 250 millisecondi fino a 1000 millisecondi e quindi nelle pause bianche, nel rumore bianco, lo chiamiamo noi, alcune volte registriamo delle voci che interferiscono in queste frequenze radio e ci danno delle risposte. Ah, quando tu hai la raffigurazione, diciamo, spettrografica del rumore bianco, vedi che c'è un'interferenza, la prendi e in questo caso era un sì. Poi c'è un'altra registrazione di questa bambina, sentiamola. Con cosa vuoi giocare adesso? Faccelo sentire. Qua sopra era lì sopra di fianco alla camera. Vero. Che cos'è? Questo qui. Questo. Sta giocando con noi così? Sì. Ok. Continua pure così, continua. Ma quel sì è sempre la bambina che dice sì. Ecco, sì. Ma poi perché sembra quello di una persona viva, perché dice sì in maniera limpida. Cioè in pensa realtà, una voce tipo sì, invece sì. In realtà dal file audio ovviamente non è facile comprendere la differenza fra una voce umana e la voce di una, tra virgolette, energia presente. Ma in questo tratto audio che abbiamo sentito, prima che arrivi il sì, c'è un'esclamazione mia proprio di paura, perché appunto era schizzato fuori questo il pentolino che pentolino. Era volato. E quella cosa è la tomba, fammi capire. Sì, la tomba in pratica è in un cimitero lì vicino, dove abbiamo visualizzato che c'è solo questa bambina sepolta e poi ci siamo fatti raccontare appunto da questa signora anziana la storia. Quindi ha ritrovato la tomba della bambina presunta fantasma che dice la signora. Esatto. Ecco, in quel caso, quando tu ricostruisci una storia, allora, la testimonianza orale dice qui una bambina è stata schiacciata dal trattore del nonno, quindi è una circostanza tragica. Voi con i vostri strumenti percepite quelle che voi chiamate le presenze, trovate anche la tomba, quindi è una case history completa in questo caso. Esatto, è quello che è l'indagine perfetta. Dalla segnalazione, dal racconto, dalla narrazione di chi ci chiama, segue poi l'indagine e i riscontri ritrovati si ricollegano al racconto che inizialmente ci è stato fatto, quindi è la nostra maggior soddisfazione. Io lo chiamo il nostro stipendio, perché effettuando tutta questa attività in tutta Italia in maniera gratuita ci ripaghiamo di questo. Ecco, ecco, una volta messo insieme questa storia, cosa succede? Bisogna chiamare un prete per farla ritornare, diciamo, cosa succede? O si lascia tutto così? Farla tornare, che ne so, in pace? Di solito nei film funziona così, torna in pace, e torna in pace l'anima disperata, queste cose qua. Ecco, a differenza del cinema, che dalla quale prendiamo le dovute distanze. Ma certo, quello stesso. Io parlo della mia esperienza limitata di film, non so. Noi ci limitiamo a documentare ciò che succede in un certo ambiente dopo una certa segnalazione, un certo racconto. Dopodiché quello che succede dopo non è affar nostro. Non è affar nostro e sono i proprietari, in questo caso, o gli enti che gestiscono dei luoghi ad intervenire come vogliono. Ma questa bambina c'aveva dei parenti ancora vivi oppure una famiglia come me non c'era più? Penso una cugina viva di questa bambina. Quindi avete anche la foto voi praticamente, l'avete trovata? Sì, infatti l'abbiamo dovuta oscurare un po' sul video per rispetto della privacy. Comunque vabbè, ormai del dolore. È morta la privacy. Quanti anni fa è successo questo fatto? È successo nel 76. Ah beh, mica tanto, tantissimo. No, tempo non è fa. Non è però tanto sempre sono tanti anni. Però comunque per rispetto del dolore anche. Comunque che impressione ti fate aver sentito la voce, aver ricostruito la storia e vedere anche la faccia? Cioè, poverai, penso una cosa comunque sia emozionante. Sicuramente tutto il mio corpo è stato pervaso da brividi per tutta la settimana in cui ci siamo dedicati all'indagine. Ma vedi, il prete racconto direbbe che è la possessione diabolica, sei andato a toccare delle cose che non dovevi toccare, senti i brividi, no? Questo è il pensiero sbagliato della Chiesa, infatti. Senti, c'hai altre storie di ritrovamenti epici oltre la bambina presa dal trattore? Recentemente abbiamo fatto un castello della provincia di Ravenna che ci ha dato molte soddisfazioni. Era un castello in cui io c'ero stato già 6 anni fa con una visita così normale, storica. Dopodiché abbiamo chiesto i permessi quest'estate per potervi condurre un'indagine ed è stato molto interessante, anche perché non me lo ricordavo così, ma di notte tutto al buio sembra un castello che rappresenta un labirinto in realtà, perché qualsiasi scala prendevamo tornavamo sempre al punto di partenza. comunque sia, nei castelli dove metti le mani le metti bene, cioè, è il posto principe, diciamo, del dove si sedimenta tante storie. Nei castelli sono state guerre, combattimenti, assedi, amori, tradimenti, quindi nel castello comunque qualche anima inquieta ci dovrebbe essere. Anche qua vedo che c'è un file, sentiamolo. Che cazzo è? Oh, Madonna, ha fatto rumore. Ma veramente? Ma perché gli altri sono qua? Sì, esatto. Porca puttana. Questo è un fantasma parolacciaro, come funziona? Ecco, questa era la parte finale, il commento di un episodio in cui cercavamo un rumore, una dimostrazione, e dall'altra parte del castello sono arrivati due tonfi veramente forti, fortissimi. Questa è la reazione che noi abbiamo. Cioè, scappa chiunque, uno sente due botti dentro un castello di notte, rimane di sasso. A volte ci accusano di dire troppe parolacce. Ma ci sta, su, dai. Diciamo sempre che è una reazione naturale. Poi perché dite parolacce non state recitando, se no uno direbbe diamine, cos'è questo botto? La signora lì è rimasta lì, dice porca puttana, che succede? È chiaro. Esatto. Detto questo, cosa stabiliva che in questo castello cosa era accaduto? Però in questo castello ovviamente non era una fortezza, quindi non è stato un castello in cui ci sono stati molti scontri, ma ai tempi del Medioevo ovviamente qualcosa di pesante è successo, e nel salone principale soprattutto abbiamo raccolto delle prove fra voci, rilevamenti di campi elettromagnetici che variavano, una nicchia che a quanto pare funge da portale, come dicevamo prima, nel salone principale dove il castello venivano festeggiate fra virgolette tante persone di rilievo del territorio, quindi si organizzavano spesso e volentieri dei grandi banchetti. Feste, banchetti. Esatto, e quindi si ha a che fare con delle impronte energetiche un po' burlone, ecco, un po' scherzose dal punto di vista anche dei riscontri che abbiamo ottenuto, alquanto ingannevoli. Quando torni a casa con tutti questi strumenti, non è che ti rimane attaccato qualcosa di tutte queste presenze? Ti è mai successo che improvvisamente c'è stato una sorta di trasporto di cose strane dal luogo in cui andavi, te li sei portati dietro, sono rimasti attaccati, o non funziona così? Ecco, questa è un'altra leggenda da sfatare. Non lo so, chiedo. Per chi lavora veramente nel settore, ci lavora seriamente, sa benissimo che è impossibile una cosa del genere, poiché la protezione maggiore che noi usiamo è quella mentale, cioè nel senso che sappiamo che finita un'indagine, anche se ci siamo proiettati nel tempo della struttura, nei tempi che furono, finita l'indagine dobbiamo tornare con i piedi a terra, nel 2019 tutti consapevoli che abbiamo fatto un'esperienza sì unica, energetica, ma che finisce lì. Ti sei fatta? Che in realtà, se ammesso e non concesso, perché diamo sempre il margine del dubbio, che ci siano dei fenomeni di filtraggio fra dimensioni che si lambiscono e qualcosa venga anche nella dimensione che noi viviamo in maniera consapevole, è legata comunque a un posto, cioè quando avviene questa cosa avviene lì per qualche ragione, ma non è che si sposta, lì c'è una fenditura dove entrano i due mondi in collisione, ma lì rimane in quel posto lì. Esatto, e questa è la risposta giusta. Tranquillizza, devo dire, se succede lì. Noi abbiamo sviluppato due teorie fino ad adesso con le esperienze fatte, che sono quelle dell'impronta energetica, quindi proprio un'impronta energetica legata al luogo in cui noi indaghiamo, e quella della sovrapposizione di dimensioni temporali, quindi grazie ad alcuni fattori anche ambientali oltre che psichici collimano queste due dimensioni e magari riusciamo a rivivere qualche momento e interagire con qualche energia che viene dall'altra parte. Ma mi viene a pensare come un tubo dell'acqua che si rompe sotto muro e comincia a avere la macchia d'umido, è rotto lì il tubo e basta, il resto dell'impianto non esce niente, passa tutto sotto, è così, funziona così. Esatto. Vabbè, buon viaggio, dai, buon divertimento, alla prossima mi racconti altre avventure di fantasmi, ciao. Grazie, buon viaggio anche a te. I'm a dreamer, I dream a lot. I go upstairs in dark, ease my case, yeah. A dreamer, I'm a dreamer, and I dream of you. Thank you.